Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Roberta Fileni. Da un piccolo allevamento a una grandissima distribuzione. 300 milioni di fatturato, oltre 1800 dipendenti concentrati nelle Marche, 240 allevamenti in tutta Italia. Sono alcuni dei numeri del gruppo Fileni, azienda attiva nel settore dell'allevamento delle carni bianche, primo produttore italiano ed europeo di carne avicole da allevamento biologico e terzo player nel settore avicolo nazionale. Ma la storia dell'azienda inizia negli anni 60 in una famiglia di contadini ed è la storia di Giovanni Fileni, che ci racconta la figlia, Roberta Fileni. Ah, questa storia è una storia che nasce a fine anni 60. Ed è mio padre che inizia questa avventura ed è una di quelle storie bellissime, insomma, no? Di una persona che riesce da sola, con la sola sua volontà, a creare una grande impresa, una grande azienda. E la mia famiglia è di origini contadine, i miei nonni erano dei mezzadri nella campagna marchigiana. E le loro storie sono bellissime perché ti raccontano di questa grande casa dove vivevano in 20, 25, dove c'erano tanti bambini. Era la classica famiglia, no? La famiglia di un tempo. E in queste negli anni 60 le famiglie, poi questi gruppi familiari molto numerosi, si dividono e ognuno intraprende la sua strada. Nato in una famiglia che coltiva terreni a Mezzadria, Giovanni Fileni non vuole fare il contadino e cerca una sua strada. Giovanissimo va a lavorare in officina, poi la rileva, non ancora maggiorenne. Ma gli viene un'altra idea. Aveva delle ambizioni, si voleva sposare, voleva una casa sua, voleva qualcosa di più. Voleva che i suoi genitori non abitassero più in una casa in campagna senza riscaldamento e senza luce. E quindi, insieme al meccanico, ha deciso di coinvolgere la sua famiglia in un allevamento di animali, e in particolare di polli, perché questo tipo di attività gli consentiva di vendere porta a porta nella città prossima, che è la città di Jesi, il prodotto della campagna. Quindi di giorno faceva il meccanico, la sera prendeva un motorino perché non aveva la macchina e andava a vendere porta a porta questi animali. L'attività rende. L'attività di meccanico viene abbandonata e la famiglia inizia ad organizzare piccoli allevamenti per vendere carni bianche e uova. E il momento è quello giusto. Quelli erano gli anni in cui le persone abbandonavano le campagne e appunto si trovavano in nuclei cittadini, quindi avevano bisogno di prodotto che veniva dalla campagna. Inoltre cominciavano le donne a non rimanere più in casa, no? A trovare delle attività, non si occupavano più soltanto dei figli, ma anche loro avevano necessità, desiderio di lavorare, quindi erano meno dedite alla cucina. Proprio questo aspetto ha portato mio padre e i suoi familiari, perché poi lui ha coinvolto tutta la famiglia, i nonni, gli zii, mia madre. L'allevamento è cresciuto e non poteva continuare a fare la vendita porta a porta di notte, insomma diventava un po' scomodo, e allora ha deciso di aprire dei negozi. Inizia l'attività commerciale, dapprima in piccolo, ma nel giro di una decina d'anni, partendo da Jesi, Fileni arriva in tutte le Marche. Il primo negozio che ha aperto era il negozio di sartoria di mia madre. Mia madre faceva la sarta e insomma anche lei veniva da una famiglia di contadini, però anche lei aveva il desiderio di non rimanere in campagna ma di imparare un mestiere e iniziò a fare la sarta. Aveva un piccolo negozio in cui svolgeva questa attività. E mio padre l'ha convinta a trasformare questo piccolo negozio di sartoria in un negozio in una polleria, in una macelleria, sempre a Jesi. E hanno fatto questa trasformazione. Questa trasformazione è andata così bene che hanno deciso successivamente di aprire altri negozi. Da fine anni 60 a fine anni 70, i negozi che riuscirono ad aprire in tutte le Marche erano circa 47. L'attività di sviluppo, la distribuzione nei negozi diventa fondamentale. Oltre alla famiglia, adesso ci sono anche i dipendenti, gli allevamenti di proprietà e un piccolo macello. La parte commerciale dell'attività e il contatto con il pubblico servono a conoscere meglio i gusti e le necessità dei consumatori. I negozi fileni si specializzano, aggiungendo all'offerta classica anche prodotti più elaborati. Questi anni sono stati anni molto molto importanti, perché questo contatto diretto con il consumatore ha fatto intuire quelli che erano i prodotti di più successo, di maggiore esigenza, i desideri delle donne che andavano a fare la spesa in questi negozi. E quelli erano gli anni in cui appunto non bastava più offrire un banale pollo, del petto di pollo, una coscia di pollo, ma serviva anche poter offrire alla consumatrice un piatto elaborato, uno spiedino, una salsiccia, un hamburger, una cosa già condita, pronta da mettere al forno. Infatti i negozi dei miei genitori si specializzarono proprio in questo. Siamo alla fine degli anni 70, arriva la grande distribuzione e i negozi iniziano a perdere clientela. Ma questo nuovo contesto diventa un'opportunità. Alcuni negozi vengono trasferiti all'interno dei supermercati. Ma la grande distribuzione non è nella condizione di poter offrire un prodotto fresco, preparato artigianalmente come si faceva nei negozi privati. E quindi c'è una sorta di prima partnership con la grande distribuzione, perché mio padre, la mia famiglia, gestisce il punto vendita della macelleria all'interno della grande distribuzione. Quindi una parte di questi negozi erano proprio all'interno dei supermercati. Quando tu non puoi sconfiggere il tuo nemico, la cosa più intelligente è allearsi, no? E quindi questo fu il primo momento di partnership con questa tipologia di cliente. E la grande distribuzione diventerà il partner di riferimento dell'azienda. Sulla base delle esigenze della clientela, infatti, inizia una produzione specifica, prodotti confezionati da vendere all'interno dei supermercati. Così, negli anni 80, Fileni diventa azienda di riferimento per i prodotti pronti da cuocere. Ed arriva su tutto il territorio nazionale. Sì, negli anni 80 infatti sono stati gli anni che ci hanno visto uscire dal confine marchigiano e pian piano distribuire prima nel centro Italia, poi nel nord Italia e anche al sud. Oggi la nostra distribuzione è una distribuzione a livello nazionale completa e ci hanno visto appunto individuare clienti che potevano acquistare i nostri prodotti e inserirli all'interno dei propri supermercati. Oggi i negozi di proprietà non ci sono più. I clienti sono diversi e vanno dalla grande distribuzione alla ristorazione ai negozi. Allora, i nostri clienti sono sia la grande distribuzione che la distribuzione organizzata. Un altro canale di vendita molto importante per noi è il food service, quindi la ristorazione, sia quella commerciale che quella istituzionale. Quando parlo di istituzionale parlo di ospedali, mense, scuole. Abbiamo un canale di vendita che è quello del normal trade e quindi delle macellerie, siamo ritornati a questa nostra esperienza iniziale realizzando un prodotto dedicato solo al canale macellerie. Tra l'altro è molto interessante perché abbiamo creato, oltre che un prodotto, un marchio dedicato al normal trade, questo marchio si chiama Club dei Galli, abbiamo proprio anche creato una comunità di macellai. Noi riteniamo che questi mestieri, no, che possono sembrare antichi, possono sembrare dei mestieri non più moderni, non più adeguati, in realtà sono dei mestieri che vanno rivalutati, è un modo, sono delle conoscenze che non devono essere perse, no? Nel 1989 viene realizzato il primo stabilimento produttivo in Italia dedicato ai piatti pronti, cotti e crudi. E poi c'è la sfida del biologico, che riguarda una parte degli allevamenti. Sì, noi a fine anni 90 un nostro cliente che produce baby food ci ha così sfidato a fare del prodotto biologico. Aveva queste esigenze e si è rivolto a noi chiedendoci se potevamo iniziare a fare questa sperimentazione. Ci siamo informati, abbiamo letto tutti i regolamenti, abbiamo visto che era una cosa molto complicata e lì per lì ci siamo un pochino spaventati. Poi però abbiamo iniziato a fare i primi esperimenti, abbiamo visto che era sì complicato ma che si poteva fare, e quindi abbiamo iniziato a fornire aprire questa azienda. E poi ci siamo chiesti, ma perché non provare a realizzare una linea di prodotto da dedicare appunto alla consumatrice italiana? Questo abbiamo fatto, ma nel frattempo abbiamo anche deciso di entrare nel consorzio Almaverde. La produzione è totalmente assorbita nel mercato italiano. L'azienda guarda con interesse quello che succede all'estero, ma non è ancora il momento di superare i confini. Non siamo ancora pronti. Crediamo che il mercato nazionale ancora sia il nostro mercato di riferimento e che in questo mercato si possano fare veramente delle grandi cose, perché è un mercato che sempre più sta chiedendo prodotti di qualità. E siccome noi vogliamo essere un'impresa che fa qualità, oltre che insomma essere sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista anche ambientale, ma soprattutto economico, perché se sei nella condizione di poter produrre utili e quindi sei nella condizione di poter investire, di poter pagare i tuoi fornitori, di poter pagare le tue maestranze, puoi anche fare qualità, puoi anche fare sviluppo. Nel 2011 fatturato di 300 milioni, crescita del 3-4% nel 2012, 1800 dipendenti tutti nelle Marche, concentrati principalmente negli stabilimenti di produzione a Cingoli, Macerata e Castelplanio, Ancona, e poi gli allevamenti. Poi abbiamo gli allevamenti, alcuni sono di nostra proprietà, altri sono di altri imprenditori. Nel nostro settore si utilizza un contratto molto vecchio, un contratto agricolo molto vecchio che si chiama contratto di soccida, ed è un contratto nel quale l'azienda definisce il pulcino, l'alimentazione, l'assistenza tecnica attraverso i propri tecnici, l'imprenditore invece mette la struttura, l'allevamento e la manodopera per far crescere l'animale. E poi ritiriamo tutto il prodotto e in questo modo siamo sicuri che il prodotto che a fine ciclo arriva è esattamente quello che vogliamo. Le nostre maestranze sono 1800, ma stimiamo 1500 di indotto, perché tra allevatori, trasportatori, fornitori che lavorano quasi in esclusiva per noi, insomma, questo è l'indotto. I dipendenti appartengono a quasi 50 etnie diverse. I lavoratori stranieri fanno parte dell'azienda da oltre 20 anni. Ci sono circa 49 etnie diverse, quindi una buona parte dei nostri lavoratori sono lavoratori che provengono da altri paesi. Noi utilizziamo risorse appunto che hanno culture, provenienze, lingue diverse ormai da tanti anni. Sì, perché in questi anni di crisi purtroppo non è così, ma negli anni passati il nostro territorio era un territorio in cui la disoccupazione praticamente era inesistente. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.